nel tuo posto, dove dormono gli eroi, piuttosto che continuare con un eterno rimpianto. Tu sarai il sole, io sarò la fiamma, brama di dominio e violenza brutale, e sotto missione e rivoluzione, idealismo del sangue, altruismo e fedeltà, correre in salita fino alla vittoria. Io posso solo sentire il cielo dell'inferno, che come nei tempi antichi ci porterà.